at di un mese, ma buoni, tutto buoni di cavolo. E quando tu rimasti calmi e erano amabili, contro, non erano intrusi come dire che sono intrusi. Pellicola. E lo sai che la pellicola l'ho messa al televisore che fa male. Non bisogna metterla nei cibi grassi, perché se no è cancerogena. Ho capito. La pellicola trasparente non va messa nei cibi grassi, perché se no diventa cancerogena. Gaba. Per dire, tu ti avvantaggi, ad esempio, così, per la carne arrosta, il forno, ti avvantaggi il pollo arrosto, per dire. Tu li metti la pellicola, non ci fa, perché è grasso, e c'è olio, c'è questo, c'è l'altro, e fa male. Avanti. Buonasera a tutti, qui Nicola il Pellino, perché c'è freddo. Ma sembra meglio, Nico. Speriamo che diciamo i contatti si diminuiscono, sembrerebbe di sì. Comunque speriamo bene, va bene, sono entrato per un saluto. Positivo, ciao Nico. Buonasera anche a te, mi arrivi bene qua, c'è problema. Bene, ma ho sentito qualcuno che mi ha sovrammodulato. Chissà, sarà che su, che c'era su 45. Lo so, sovrammodulare, vuol dire che c'ha tempo. Sì, va bene, potete farmi ritirare la ruota, io rimango in ascolto e intervengo ogni tanto. Va bene Nicola, avanti chissà. Avanti che non. E allora Luca, Luca, il demigondas. Oh, c'è un altro impatto, ho fatto la comida oggi. Mi ha detto, io stavo lavorando. Vabbè dai, compenso già. Sono riuscito a quello che dovevo fare, dai, ma stavo macinando e tra me e me dicevo ci riesco. Adesso mi rilasso un po'. Ma anche io sono messo attaccato al coso, al fate vecchio, non è che mi interessa. Al comodino. Non me ne vado là seduto nella scrivania. Vabbè, c'è vicino lo stesso. Così qua rimango sdraiato e mi viene meglio già. Ah, visto, io me l'ho messo in camera da letto, già lo sai. Ma perché? Perché mi posso sdraiare. Quando mi sdraio lo accendo e mi rilasso. Questo qui è un motivo tutto rilassato. E quindi se faccio rilassato io. Con la catria mi ci batti. Ce l'hai qua là. Si conferma anche per me, dai. No, vabbè, dai, cameretta. Però quando arrivo alla fine stacco tutto. Luca, ma non hai provato il microfono, quello che si è andato a quell'apparato, quello della CTE? Già, non ce l'ho. Dovrei provarmi qualcuno. Io il mio volo modificato io, non è della CTE, il mio c'è un'altra capsula strutturata, l'ho modificata. Però va bene così, l'ho fatto pure sentire a un carro, mi ha detto che era andato per bene. E allora l'ho lasciata, ho messo la capsula sull'altro microfono, eccetera, eccetera. E l'ho trasferito, tutto il volo, l'ho trasferito nella carcassa della cosa, della pista. Qui qua c'è scritto positivo 63.927, 50.048 guariti, no aspetta, contagiati 63.000, positivi 50.000, guariti 7.000, morti 6.000, 6.077 persone sono morte. E un pezzo, c'è anche la Serena lo stesso, dice che la stanno lavorando. Adesso, positivo come a Roger, dai, la cosa è bella, c'è di dove non se tu ascolti questo piccolo musolino, capa. Cambio. Ora un paracchino tranquillo, mi dici che fate male alla regia. Se non ne ho. Eia. Perché schicchia forte. Nei saluti non è che vada bene, va bene per fare i miei ex qui. Che non attacco mai, è difficile che l'attacco, sto per farlo riscaldare qualche volta, ma non è che. Per me è bello, quando è acceso, la temperatura è azzurro, c'ha i pomi di azzurri, quando ci sono gli anticipi di cosa. No, è bellissimo. Poi, comunque, aspetta un secondo che devo fare una cosa. Fai fare un attimo, già c'è un telefono che non è... mi hanno parlato di telefono a riparare, cioè sta vibrando, cazzo, un attimo. Però c'è cosa che regolo le stazioni, che guardo le stazioni, che non mi piace. Thank you. mezzo capito quando ho fatto la ricerca. Però se tu controlli su Google, quando hai tempo naturalmente, non ti voglio stressare, c'è scritto che funzionano solo con Windows 8, Windows 8 o superiore. Io ti dico di no, io ti dico di no, io sono connesso adesso. Quindi tu mi stai confermando che hai Windows 7 e hai il tuo WhatsApp nel computer, me lo confermi? E te lo confermo. È funzionante, l'hai provato? E certo che funziona. Guarda, mi hai dato una bella notizia, perché è una cosa importante. Allora, perché intende, se io devo scrivere una lettera in Word e lo voglio, lo devo mandare in WhatsApp l'unica maniera è non computer. Ecco, ecco. Ciao, buonasera. Gianni da questa parte. Ho sentito Luca. Ciao Luca, non so che ci sia in ruota. Ho sentito un pezzettino del discorso. Comunque sottoscrivo e confermo quello che dice Luca. Anche io ho Windows 7 perfettamente funzionante, con installata l'applicazione su PC chiaramente, perché se no non serve a nulla. Io ho installato niente, vado su web, su WhatsApp web, poi punto il telefono e si connette automaticamente. Oppure vado online. Avanti tu. Io l'ho detto a te, ha detto, abbiamo parlato assieme, forse l'ho superato. Boh. Scusate, ho detto che se non ho capito male ci sono due modi. Uno è scaricare un'applicazione e rimane nel computer, un altro modo è quello di collegarsi online su un sito, cioè su WhatsApp, e quindi ogni volta bisogna entrare sul sito, capito? Ehi, dai, ti dico come ho fatto io. Allora, io nel computer mi sono installato l'applicazione, l'applicazione installata di WhatsApp Web. Poi, come stava dicendo Luca, chiaramente vai sul telefonino, apri l'applicazione sul computer, i famosi tre puntini, fai tutta la procedura di connessione, ti appare quel codice quadrato, Q-code, come si chiama, adesso non mi ricordo, punti la fotocamera sul Q-code, praticamente una volta che il PC ti riconosce praticamente il Q-code, l'applicazione sul PC si avvia e praticamente vedi tutti praticamente i contatti, tutti i messaggi, tutte le chat sul computer. Questo per quanto riguarda l'applicazione. Poi online non ho mai provato. Avanti tu. Mi si conferma. Devo scattare una fotografia oppure basta che io metto la cam del cellulare a quel quadratino senza scattare nulla, lo riconosce automaticamente? Allora, tu praticamente devi aprire WhatsApp sul telefono, ok? Una volta che tu hai installato l'applicazione sul PC, apri WhatsApp sul PC, ok? Famosi tre puntini, tramite il telefono, vai a connettere praticamente il telefono sul PC, a quel punto sul monitor del computer ti appare praticamente il Q-code, quel quadrato col codice, ok? Nel telefono praticamente ti apparirà una pagina dove si aprirà la fotocamera praticamente per fare la scansione del Q-code che ti appare sul computer, ok? Tieni praticamente il telefonino puntato sul Q-code e poi vedrai praticamente sul telefono la procedura che si avvia. Una volta che è finita la procedura, ok, il telefono è connesso al computer e da lì praticamente ti appare, sul PC ti appare tutta la schermata con tutte le chat, ok? Quindi allora, se io volessi trasferire il WhatsApp, un file che ho nel PC, me lo confermi? Positivo, positivo. Invece di stare ad azzuffarti col telefono, una volta che è avviato WhatsApp sul PC, puoi mandare qualsiasi tipo di file, PDF, JPEG, Word, video, foto, insomma, praticamente puoi allegare qualsiasi tipo di file. Ma niente, posso anche fare sia una chat che una video chat, giusto? Beh, se hai la webcam sul computer, credo di sì, e anche un microfono, chiaramente. Sì, sì, ce l'ho, so tutto, so tutto. Va bene, io vi ringrazio della cosa che mi serviva per aiutare il lavoro di mia moglie, che è insegnante, hanno fatto un gruppo con gli studenti, bisogna mandare file, quindi io non sapevo come fare, ma adesso ho capito, grazie. Va bene, dai, meglio così. Comunque se hai qualche difficoltà, credo che ci siano su YouTube, credo che ci siano dei tutorial, quindi al limite se ti vuoi rinfrescare la memoria, magari ci sono dei tutorial su YouTube che ti possono dare una mano. No, ma io dicevo che al 60-70% avevo quasi capito. L'unico dubbio che io avevo è che questi c'era scritto che funziona solo su Windows 8 o superiore, ma se mi dici che a Sega il Windows 7 funziona, allora il problema l'ho risolto. Affermativo, guarda, ce l'ho installato già da un bel po', oltre WhatsApp c'è anche Telegram, quindi funzionano tutti e due alla grande, e niente, confermo e sottoscrivo. Scusate, non vorrei monopolizzare la frequenza, ma Telegram in effetti cos'è? Io non ce l'ho, grazie. Né più né meno quello, un software che fa più o meno le stesse cose che fa WhatsApp, è meno famoso e non rientra nel gruppo Facebook, è su un'altra piattaforma, e ha le stesse funzioni di WhatsApp. Ricevuto, bene, ringraziamenti, adesso rimangio la ruota, grazie ancora. Avanti tu. Scusa, ciao, sto facendo male. Come mai sto facendo male? Come ho capito? Lo sentivi tu, già? No, sento un borbottare piccolo in mezzo al QRM, ma non si capisce nulla. Doppio room, ci sei? Ci sono. Ebbene, ok, di sei torno. Ti va che ti sei ripusato. Oh, sono al telefono. Ciao, Gian, mi hai sentito? No, sono al telefono, sto leggendo roba, un attimino solo, sto intervenendo. Ok. Positivo e Caparrocci. Poverino, il chiette. Aspetta un attimo, già. Tu, profeta. Il profeta Isaia. Eccomi, ciao già, buonasera. Ciao, ciao già. Stasera mi sto facendo un po' di viaggi con la Spagna sul canale 39. Normali, no, è in effetti. 39? No. Arrivavo alla Nova, io gli arrivavo a Nova lo stesso. Ogni Nova, ragazzi, prima sentivano pace, poi hanno cominciato a arrivare furti, ma si sentivano come se fossero sotto casa. Questa che ora già? Poco prima di entrare, verso le 6:10 così. Ah, interessante. In FM hai detto? Sì, ja. Trattano per FM, ma c'era la FM era tutta piena, solo che c'era dove erano più passi, dove erano più furti, capito? Ah, ma cos'è un questo locale? No, c'erano diversi posti della Spagna, c'era Roma, c'era che io non sentivo Roma, Roma non la sentivo, per loro ci parlavano, poi dicevo l'amico del Mediterraneo, del Mar Tirreno, non so che cosa, imbarcazioni del resto che fossero chiamate. Qualcuno non lo sentivo, però loro li sentivo bene bene. Bene, no, io ho acceso la radio poco fa e ho sentito Luca dando istruzioni a Nicola, e allora mi ci sono imbucato, visto che ho WhatsApp installato anch'io, quindi sono entrato giusto a dare conferma. Poi se vai sul canale 45 c'è tutto il dati. Ma in questo momento? Ma non lo so, adesso non l'ho girato, però c'è una poco qua, c'è, controllo. Beh, controllo da dai, una trentina di secondi vado a sentire cosa c'è, dai. Camionisti naturalmente. 45 sì. Le camionisti di fuori però. Oh yeah. Lì fanno una brutta allucinante, si sovrappongono con un casino. No, è propagazione, no. In propagazione vanno su 45. Sul canale 5 vanno quelli, diciamo, del posto e cose. Quando sono in propagazione trasmettono anche da fuori, dalla Germania, dall'Olanda, quelli che portano le carni solitamente dall'Olanda. Capito? Fanno chiamata da lì. E gli altri dicevo bene. Ma io avevo freddo dentro casa, figurati di Carrasco dove ci sta. Sì, sì, fuori frequente. Canale omologato sotto sì al canale 40, bomba. Ora non posso capire AS, USB, NSB, eccetera, eccetera, però sempre 40 canali. E è quella che c'è più canali in FM, gli altri ce l'hanno solitamente, evolvono in FM la Germania, la Francia, quasi tutti rivolgono gli esteri in FM. Ma io sapevo il contrario, sapevo che l'FM è più sporco come segnale, infatti bisogna usare lo squelch, perché se no sentivo un po' QRM, però che va per lontano. Io avevo un amico che per parlare con i suoi autisti usava l'FM e andavano pure, quindi vuol dire che schicchia di più. AM e FM, tutti e due c'è. FM, a tua scelta. I paesi esteri usano l'FM, la M manco la conosco. Ci sono apparati che non hanno manco AM lì. E vabbè, noi andiamo per la M. L'FM non piace a nessuno qua, però sembra una telefonata, quando tutti lo squelch, se arrivi forte, sembra una telefonata. Ma noi le facciamo sempre le prove, non è che ci siamo problemi. Per vedere come ascolti. Prova a vedere, dai, vediamo un po' se arrivi più forte. Sì, sì, c'è qualcuno che sta pescando le palle. Ma anche le armi di Brusha. Ah, scusate, noi, pensavo che fosse qualche disturbatore. No, c'è anche l'UFO Grigio che sta parlando, non so se tu lo ascolti. Vai, parla, buonasera comunque. Attore, scusami, ma non ti ho capito cosa mi hai chiesto. Mascherine non ce ne sono in giro. Allora, i punti di riferimento possono essere dei ferramenta, dei negozi di vernici e delle farmacie, se ce n'è qualche farmacia. Se no, nisba. A me me l'hanno buscata ancora sotto un banco perché io non ne avevo e non ne trovavo da nessuna parte, addirittura nella farmacia dove mi servo, che gli do un po' di soldi perché compro un po' di medicinali. Gliel'ho chiesto e mi ha detto, guardi, l'abbiamo ordinate ma non ce le hanno mandate. Oh, quello reggiseno, cosa ti posso dire, i pannolini dei bambini. I pannolini dei bambini escono bene, col pannolino dei bambini. Gappa, avanti, chi vuole entrare? Dimmi. Ah, sì, è vero, Antonè. C'è quella fabbrica di Giro, quella che faceva i materassi a Bonorma, sta facendo le mascherine a pagamento. Sarà come la spesa, il numero unico per portarti la spesa a casa. Sono stato da stamattina alle 8 sino a luna sempre cercando di chiamarmi, poi occupato oppure se libero non rispondono. Quindi cosa lo mettono a fare questo numero unico? Ci sono Eurospin, Mura, eccetera eccetera, che hanno messo questo numero unico che poi non funziona perché non ti rispondono. Mentre invece per la notte verdura alle 8 ho telefonato e me l'hanno portata a casa la spesa. Perché io non mi posso muovere da casa, capito? Ma non è che sia una cosa già provvisoria, a cattafondo. È meglio fatta col pannolino del bambino e praticamente lo stadi al centro, te lo infili in testa e poi la parte che è adesiva la attacca e ti viene la mascherina bella bella. Solo che ti serve per una volta perché poi l'adesiva, prima di staccare, attaccare, non attacca più. E da chi l'hai portata? E a me me l'ha fatto un amico, ha fatto lo stesso difetto il mio. Me l'ha fatto un amico e me l'ha fatto il giorno prima e il giorno dopo me l'ha fatto la posta. Una resistenza, mi pare che era un diodo o qualcosa del genere. Praticamente me l'ha cambiato, ha detto che costava una fucilia per 5 centesimi, un euro proprio al massimo. Non ha voluto manco su, di fatto il colpo. Bisogna controllare tutto il circuito elettrico, ma mi importa l'avventurio, l'unico che lo fa è l'avventurio, come tecnico. Poi c'è gente che lo fa per passione, ma non ne sta facendo, lo fa solo agli amici e cose, proprio per fatto di un favore, non è che lo fa per lavoro, lo fa per passione. Io non so che dirti, tanto lei. Vittorio può aggiustare, penso ancora che mi stia facendo. Io ne ho sì, però in stazione ne ho messo solo 4, ma ne ho sì, che funziona. Anche il Midland c'ha il microfono che sta difettando, ogni tanto esce, ogni tanto non esce, però è il microfono, basta che tu li metti un MP5 lì e schicchia forte quel Midland, è forte, esce bene. Ma il Royce funziona, Antonè, il Royce funzionante, quello è un apparecchio che a me piace molto, se lo stai dando fammelo sapere. Ho capito. Potrebbe interessare, perché io voglio fare una stazione tutta quanta a parecchi bassi e lascio solo l'omologato per la concessione, però piacerebbe avere tutta la parecchi bassi, almeno per farmi dubbio, per vedere perché mi piace un bello. Ah, poi vabbè, ti tengo conto, dai. Quando finisce questo cazzo con una fix. Oh, vediamo un po' se è rientrato Luca. Luca ci sì. Luca non è rientrato. L'amico Lupo Vigio ci sì. Sì, già, scusa, sto smontando un telefono, dai, sono in ascolto. Grazie, pure anche qui per fare la cacchia infame. Io ho andato per Antonello, come ho mandato un gatto la bomba. Cappa e già l'udista, sì, mi piace anche a me quella lì. Cosa stiamo dicendo? Lupo Vigio, vi siete sovrappopolati, mandate quando dovete interpellare, se no c'è un casino qua. Ripeti tu un po' video e poi fai girare per Antonello, perché se no mi sovrappopolato, non ho la sentito. Capo, dai, ti saluto anche io un po' video, mi dispiace che tu debba andare in punizione. A parte Antonello. Capo, un po' video, ti saluto Antonello di Ussi, dai. 751 ti saluta a te e Correa. E deve aver chiuso già Antonello. Antonio, ma questo Dio sì che è morto, lo conosci, il capo è un bel giovane. Non sarà quello di Don Giulio che fa Lumantuni, perché mai perché vanno a fare Lumantuni da questo tipo di usci, che lì ce ne ha un becuni. Ma anche Lumantuni vedete. Ma ha fatto di Silvio per caso? Ah, ho capito. Antonio, anche quello che ci ha fatto, quello che ha fatto esce un bel bene. Non mi piace come estetica però. Ma io non li voglio radio molto complicate, mi piacciono semplici, dai. C'è 23.000 è tipo un apparato VHF in mano, dai. Tipo quei VHF che si mettono in mano. Sono strani come... Non è che mi piacciono tanto come estetica. Anche se c'ha un bel monitor, qua ci sono tanti CRT di 2000, però la vedo prendere a sorpresa, ma sono tutti uguali, Jokix. Questo Jokix dovrebbe essere bello, Questo lo spicchia forte, mi sa che esce con 100 watt. No, non lo fanno più, Antonio. Calma, abbiamo fatto interprete e porta a parlarcelo. Solo che a me non mi sa soddisfatto perché dicono che esce il passo di radio, devo mettere sul microfono che si addice. Benissimo, la radio presente è forte, sembra praticata. Antonio, ricordi male, l'abbiamo fatta insieme. Ne abbiamo aperto un po' la modulazione, il microfonino. avevamo fatto insieme, trattavo in faccia entro tu e mi ha detto come fare, l'ho fatto anche io, l'ho fatto anche io, ma appena appena mi l'ho aumentata, niente. Te lo ricordi che te l'avevo fatta montare io, che era piaciuta a me subito, come l'ho visto, cazzo, il monitor era troppo forte, no, roba nera, sembrava un apparato professionale, che ha pagato. Io sto facendo per l'arma, non è, per fare il cambio con la linea, se mi vuole dare una apparato, quindi, ma adesso vediamo, là. Vediamo un po' come si comporta la situazione. Se mi metto quello che c'è tu, ma come ce l'ha la cosa, la cassa in legno, vero? No, quello lì voglio regolare le medie frequenze sicuramente, non c'è niente da cambiare, sono le medie frequenze che magari ce ne sono andate, poi voglio regolare, registrate in mano. Ma ascolta, ricordami il modello. No, ce l'ho davanti, modello 642-1-642 SSB AM 40 canali CD radio base. No, ce l'ho Antonio, non ti disturbare, ce l'ho davanti, l'ho guardato sul telefono. Questo qua con un po' microfono schicchia a forza, più di qui. Ha passato dall'armiturio, io te l'ho fatto. Che microfono li hai provato questa apparato? Ma che microfono li hai provato? Non hai provato nessun microfono su questo apparato? E beh, qual è che andava meglio? Si chiama forte. Appagato. Io ci trovo in giro, non sai ancora come c'è la stazione, io non c'ho un mobile con il rimpianto. E ci sta perché ci sta. Qua io farei tutto quanto, eliminerei tutti gli alimentatori e metterei tutti gli apparecchi così, ma sì, mi piacciono bene. E io ce lo conosco uno, ma non voglio disturbarlo. Ho fatto il garage in un giorno, me l'ho fatto, l'ho dato la sera, la mattina me l'ha ritornato. No, l'ho dato la mattina, la sera me l'ha ritornato. Sai cos'è? Che è molto impegnato questo periodo, lui fa tante cose, è impegnatissimo. Oltre al lavoro che fa, lui c'ha questo tipo di rompi che c'ha, è molto apprezzato, perché è molto apprezzato, c'ha tutte le apparecchiature, c'ha frequenzive, però c'ha oscilloscopio, tutte queste cose qua, perché è molto appassionato di queste cose, però bisogna trovare il momento giusto, allora, mi spiace, là, va bene, là. Già ci sentiamo in condizioni più buone. Dove Antonio, tieni le cose di quella cosa e poi vediamo, dai, ci mettiamo d'accordo. Lo dai a me. E mi piace, non è stato di base. Ciao, ciao Antonio, ci sentiamo. Buona serata, ciao ciao. Avanti se c'è qualcosa su 10. Io già ci sono, lì, sono quasi finito. Cazzo, mi ha rato, ho andato un percorso, cazzo di voce per pigliare un raio. Allora tu non chiedi se c'è qualcuno. E tu abbassa che sul gatto il microfono, è troppo alto, c'è la modulazione troppo forte. E chi la tua è di Bari Bascia? No, la mia è tranquilla, io ho la voce, tu ce l'hai squillante la voce. Io ce l'ho tranquilla, siamo bello rilassato. Mia. Aspetta, già. Aspetta, ecco, faccio un giro per vedere se trovo un po' di spagnoli e poi tutto lo fa. Sono tornato, non c'è nessuno. Tutti spariti, non ce ne sono stasera, boh. Non sono qua a casa quelli solo qua. Sarà lì poi più d'accordo, ma fate rispetto. Ma non si già la disperata, aspetta. Trompettino, trompetta non sarò, attenzione non trompetta, trompetta ma cos'è che si può? Oh, devo cambiare un display a un Samsung Galaxy A5. Ah, diciamo che ti sto calando il visore. No, il televisore è a posto. Attento 10, c'è qualcuno su 10? Avanti, non questo, buonasera. Ciao Gianni, adesso ero su 45, ho provato, c'era un tipo, non so se era spagnolo o se stesse facendo il furbetto, fortissimo, 9 più 20 arrivava, mi ha risposto, poi non ho capito cosa è successo. Io invece stasera, no, c'è l'operatore per la Spagna, stasera io su 39 in FM ho fatto 10 con la Spagna, erano in 2, poi c'era anche la ruota di Roma, eccetera, eccetera, però quelli non li sentivo. Ho parlato la Spagna, arrivavo a Santiago Nove, Santiago Nove gli arrivavo di Santiago Nove, la 25 a e io conosco proprio adesso nel Puglia, ma è bello perché è capitato anche adesso, non so se lui sta facendo il football, ripeto, non c'erano disturbi perché molte volte quando c'è propagazione sono uno sopra l'altro, non riesce a fare una conversazione più di un minuto perché poi ci passa l'altro, l'altro va via, si abbassa il segnale, eccetera. Questo era fortissimo, non so se era veramente da Alicante, dice che era. E poi ho copiato questa mattina dall'Albania. Cos'è l'Albania? Yeah. L'Albania la conosco benissimo, ho tanti amici e tante conoscenze. Durex vuol dire durazzo. Durazzo, sì, esatto. Con quello parlavo. E arrivavano tutti, arrivavano. E non era NFM lo stesso. Tranquillo, mi sentivo passato per la pena. Lo squelci, mi sentivo per qui. Ciao a tutti, sono per un saluto che sto uscendo. No, quello che c'era stamattina che ha parlato con me era dalla Croazia, Gianni, non era dall'Albania. No, sto uscendo per un altro che parlava da Durazzo. Dove potevi andare a uscire? No, sto uscendo col cane, cioè. No, sono entrato stasera perché ho fatto un po' di attività in WTF e ho sentito Gianni Eldorado, non so se ti ricordi, mi seguono BQ, mi hanno fatto due chiacchiere in WTF, poi mi sono spostato in 80, poi un po' in 40, se no non faccio più attività lì, è un casino. Beh, vi saluto, vado a portare il cane già, intanto c'è il phone acceso, qua sta lasciando i capelli e non sento un cacchio. Ciao Roberto, ciao a tutti comunque, buon fine serata, se ci siete ci sentiamo dopo, ciao. Ehi, è fatto bene che sei entrato perché non me l'ho reso conto dell'orario. Devo fare l'iniezione, con un secondo solo ne vado a prendere la cinta per l'iniezione e dopo viene. Ciao, Claudio, con la passeggiata, poi siamo qua, dai. Ciao Claudia, se ci sono noi ci sentiamo dopo. Anche a te Gianni, io rimango qua in ascolto se c'è qualcuno sul 10, attenzione 10, chi vuole entrare, se no fate come volete. C'è Luca. Luca del Mo. Vedi. Non l'ho sentito. Luca ci sei? Sì, vabbè, sto chiamando un telefono, aspetta. Sì, dai, è un comodo. Ma no, Luca già ha risposto, dice sta chiudendo un telefono, dai. Ciao Luca, dai, rimango in ascolto, se tra qualcuno. Aspetta, vado un attimino su, qualche canale mi sposto, vedo se c'è ancora quello spagnolo, cos'è. Poi ritorno sul 10. Ora, sul 10 oggi c'è il coronavirus, tutti scappati. Io sono tornato, perché ho fatto del bagno e non sono tornato. No, perché aveva acceso il ricevitore, stavo ascoltando quel programma, non so se vi capita mai, quello con Cruciani e Parenzo, la Zanzara, mai l'avete ascoltato. Guarda, è un programma micidiale, a parte che non c'è censura, dicono di tutto di più, parolacce, vabbè, le bestemmie le bloccano, però tu telefoni, parli di qualunque argomento, poi c'è Cruciani che è un pezzo di pillarla in quel posto, che è un provocatore, ti fa, allora, telefono di tutto di più, razzisti, pedofili, Rocco, ma Rocco l'è in diretta, nel senso parlano, raccontano tutto, qualunque particolare, lui è uno di quelli che poi punzecca e si fa raccontare tutto. è interessante perché poi chiamano di tutti, cioè anche persone importanti, loro per dire c'è, per dire, un argomento, oggi c'è il coronavirus, per dire un sindaco di una città ha detto questo, la chiamano al sindaco, ma tu devi sentire certe storie, non dico per il fatto del coronavirus, per il fatto, per dire, argomenti prostituzione, pedofilia di preti, chiamano al prete, ma cioè proprio senza nessun ritegno. E poi ci sono le persone, per dire, razzisti, di quelli proprio peggiore, la peggiore specie, nazisti, comunisti sfegattati, fascisti sfegati, tutto trovi. E poi c'è quel Parenzo che è un tipo un po' così ambiguo, a me non piace, perché è uno di quelli polemici che c'ha sempre da ridire, se uno dice una cosa, per dire, che tutta l'Italia dice vabbè, lui è di quello, ma secondo me, come quel vignettista, non so se hai mai guardato quello Vauro, quel programma di Rete 4, quando hanno fatto quella cosa della pizza con i francesi e tutto quanto, l'unico che ha detto ma ironia e satira e cosa, ma io mi dava ragione a questi scemi. E così è questo Parenzo, mentre Cucciani è un furbacchione, uno che tira la pietra e sa dove tirarla. Adesso il francese la pasta se la fa molta solo. Abbassa la bassi, vabbè, inutile, non si parla male, però ti dico, di quelle razioni è meglio lasciar perdere. Io già ne ho conosciuto e ci sono stato, degli spagnoli non ho niente da ridire, dei tedeschi non ho niente da ridire, ma dei francesi c'ho tanto e tanto da ridire. Vabbè, non si può fare questo da un bacio, però io penso una cosa. Allo basso. Una mano da Cina, c'è un altro, una mano agli attentati, ma lui apparteneva all'Europa o non apparteneva all'Europa? Perché io dico nell'Europa, ma poi nell'Europa ho lasciato la mano. Ma sai che c'è uno avanti, chi era? Ciao Gianni, ciao Roberto, buonasera a tutti, Marco da questa parte. Ma c'è il telefono. Cosa c'ho, il telefono? Come principale ma... Ah no, forse il bip della radio. Ciao Robè, sto usando il fratello minore di quello di ieri. Titolo informativo, molti meno watt, molta meno modulazione, meno tutto, è più grande solo di estetica, è anche diverso estetica. Dai, riprendete che sto mangiando, vi ascolto. Il trillo sul telefono, su macchina non l'avevo mai sentito, bello. Non ha mai sentito il telefono. È uno dei vari bip che ha questo, è come l'altro. Questo fa concorrenza all'Antonello Pompugno, che quello aveva 10 bipi, bipi, bipi, quando chiudeva. Eia, sì, questo è l'altro, mi. Questo è a molla, che sembra tipo tiramolla. No, già, gli altri sono brutti. Allora, Robè, per la cronaca, se dai un'occhiatina in rete, CRT 7009 questa volta, CRT 7900. Cappa, sembra un veicolare bibanda, sembra però, non lo è. Aspetta che guardo un attimino, riprendi già. Ciao già, poco fa ho fatto un giro per i canali ma sentivo silenzio, proprio silenzio totale. Cosa c'è oggi? Tutti influenzati giù? No, Claudio è entrato in altre frequenze, perché non vuole lasciare perdere le altre frequenze, di tanto entra, e poi gli altri, è entrato Trompetta, io, Luca, è entrato stava congelando, c'è un'altra casa, insomma un po' di gente è entrata, là. Mi ha detto c'è il CRT. Scusa già, 7009, cioè 7900. Allora sono arrivato tardi io, dai, d'altronde sono le... cavolo, le 7:30. Vabbè. No, c'è il bellino, c'è ragione, sembra un veicolare HF di macchina, bellino, dai. Queste sono tutte roba cinese, ormai dei veri cinesi già fanno degli HF base, ti metti le mani in testa. Ma una cosa, non so, non li conosco, non posso dire niente, ma esteticamente non hanno niente da invidiare ad apparati molto sofisticati tipo Icom, Iaesu e Kenwood, veramente bene. Questo sai che è il clone dell'altro, cioè a parte i watt, le funzioni sono identiche, sembra un apparecchio travasato in un altro chassis. Per il resto stesse funzioni, lo stesso l'eco e bla bla bla, dai, sto mangiando la pizza, dai. Vai Gianni, l'hai trovato? Sì, ma non è canalizzato, c'è solo il frequenzine. Sì, è canalizzato, puoi fare apparire o il frequenzimetro, allora vai a kilohertz, oppure i canali e vai a canali. Ah, ecco. Non è tutto. Particolare, questo microfono per attaccare tutto, e secondo le qua no. Sì, ma sono tutti così perché hanno l'up down, hanno la possibilità di attaccare un sacco di funzioni, sono predisposti per tante cose, ma anche io a me me l'ha regalato uno, Salvatore Maestrale, prima di partire mi ha detto a te ti faccio un regalo, un nuovo fiammante, un, non so se marca sia, se sia un CTE o Misa, non lo so, piccolino, non so, c'ha quelli spinotti autopulli con un sacco di funzioni perché c'ha l'up down, c'ha l'altoparlante sul microfono, sono quelli fatti per i camionisti per il campo, e c'ha l'altoparlante sul microfono, ma è bellino, piccolino, piccolino, non l'ho mai provato, una volta, un paio di volte l'ho provato, c'ho l'officina, ho messo la pasta. Ma quello che volevi tu o questo di adesso? No, no, naturalmente no, ci avrà mille e mille canali, non li ho nemmeno contatti, tutti inutili poi, Ah, ti volevo dire Robè, dimmi se la timbrica assomiglia a quello di ieri, però qua c'è la differenza, per esempio così parlo vicino, così sono 10 cm, però se allungo tutto il braccio mi sembra che sia più bassa la radio, molto più bassa dell'altro. Sì, sei più bassa, però ti posso dire bellissima anche questa, ottima radio, pulita, senza nessuna imperfezione, come piacciono a me. Adesso vorrei sentire il confronto con l'altro, ma quella di ieri a memoria forse c'aveva qualche peluzzina in più qualitativa a me, ma ti ripeto, queste sono il massimo che puoi avere qua in Malda Cittadina, questa è ottima e quella di ieri forse un peluzzino ancora meglio, ma sono eccezionali e belle tutte e due, piacciono a me, puliti, non ti porti appresso disturbi di niente e soprattutto per essere amplificata non sento rumori esterni, va benissimo. Sì, e dai, prendete che sto smascellando, dai. E anche io la pizza l'ho messa a furia e me la sto per preparare, ne ho preso quelle già mezzo pronte, margherita e poi ci metto tutto il condimento, me le faccio come voglio io, l'ho messa a scongelare un pochettino e più tardi andiamo a buffare anche noi. Ok, Gianni, doppio rum, avanti e parla. Allora, non capisco io, qua ci abbiamo 6.009, CTR, Superstar SS, uno costa 164, l'altro costa 300, cioè, ma sono qua, io sono scattato di aspetta che devo controllare. Quello che mi ha fatto vedere ieri costava un po' di soldini, questo ho visto sui 180 più o meno, però secondo me esistono anche le versioni per dire per il mercato europeo, per il mercato asiatico, mercato americano, probabilmente cambia anche da quello il prezzo, a seconda se sono più aperti come numero di frequenze che puoi trasmettere, eccetera, eccetera, magari la potenza con l'altro è limitato, ci sono tante cose, ho visto ne esistono versione M, versione E, un sacco di roba, e a capire quella versione che è interessante. A me le Superstar mi piacciono, le quelli qui, quelli che hanno vicino con i quadri, quelli hanno lavorato forte per avere. Vabbè, adesso c'è la tecnologia che passa, io ti dico veicolari ne ho diversi, però qua c'ho la 48 in vista, ho tenuto soltanto solo per zone basse, non mi piacciono a me i baracchini senza l'alimentatore interno, preferisco 10.000 volte una stazione base, tu mi dirai cioè, ci vuole spazio, grazie a Dio spazio ce n'è qua, ma ce ne sono, ieri li ho contati quanti apparati c'ho, mi sembra ne ho contato 14, aspetta lo dico 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ne ho qua. E anche a me piacciono questo spazio, lo sto facendo un po' all'Oberto, ma a Antonello Diosi, che mi piacciono le stazioni di spazio, vorrei fare dalla mia stazione con le stazioni di spazio, vorrei eliminare gli affari piccolari. Solo che il cartone di base, come dice a me, non ce n'è più, quindi mi devo buscare degli apparecchi di base che vadano bene, capito? Ma adesso c'è il Saturn Echo, qualcuno se lo trovi bello con gli ultimi, il turbo, quello nero fatto bene, eccetera eccetera, quello non me la parecchia, anche se uno scatolone, per dire, poi lo apre ed è uguale al brutto. Poi non parliamo di altri tipi di apparati, ne ho visto uno che è una cosa spettacolare, di ultima generazione, enorme, bellissimo, tutto digitale, sembra più grande del 440, quanto è. Poi a me mi piace, anche se, per dire, c'ha tanti problemi perché sono apparati vecchissimi, il DAC secondo me è il più bello apparato di baracchini vintage in assoluto, fa volare, è una bella bestia, però è il più bello di tutti. E lui diceva anche io, anche se quello di coso è più bellino, quello che mi ha fatto vedere, non mi ricordo se era Barracuda o chi, che stava cercando il microfono, non mi ricordo. Io di base ne ho, di baracchini base ho il Royce, l'Intec Multicom, un altro Intec e il Pace, più cosa c'ho? Gli altri, vabbè, gli altri sono per altre cose, dai, sono più grossi, però sono per altre cose. Ma fammi capire, l'ho messo tutti attaccati gli apparati, sono 11 mostre e basta. No, sono tutti commutati. Allora io ho un commutatore d'antenna che ho due linee, anzi tre linee c'ha questo qua, tre posizioni. Questo commutatore d'antenna c'ho la linea principale, quella che sto utilizzando questo, è per un altro apparato. Dopodiché la terza linea va all'MT3000, di lì ci sono altre 5 o 6 uscite, adesso non mi ricordo, è data con gli altri apparati. Aspetta, se c'è la batteria e il microfono te la faccio sentire, ancora dammi un minuto e controllo, dai, perché sono da molto che non l'accendo qua. Quello ci va bene, non so con che microfono te faccio uscire, ma ci va bene, tutto bella base un po'. Poi roba, come è parlato del gas, io sto uscendo con quello adesso, in questo momento sto uscendo con gas, scariche. Carica la batteria, questo da un po' di tempo ferma questo microfono, la batteria o no, che cosa? No, adesso si ha agganciato, sentiva una specie di poi di botto ha agganciato là il segnale della modulazione. Questo era un bel di anni fermo, mi vedi anni, forse non dico un bel di anni, ma almeno un annetto. Sta andando bene questo? Quello che c'ha una radio perfetta, è meglio di quello che c'è. Bella, radio. Comunque poco fa si è parlato del garage Saturno, io sto scendo con quello adesso. Già lo sapevo. Come sto andando di segnale? Molto mi sono abbassato. Uno, due, tre prova radio, qua le stazionarie sono bassissime, sto guardando anche le MT3000, sono a 1,2, calibrazione a posto, questo si abbia 5 watt, questo per il barchino. Sì, c'è 9,15 qua, vai benissimo, non mi ricordo un po' di prima, ma vai molto bene, dai, vai molto bene, c'è il radio, vedi segnale. Come si chiama la radio? Va bene, è bella questa. Ehi, a che microfono è? Questo è un Tannoy più 3B. Ah, molto bella la radio. L'unica cosa è che è un bel rumoroso questa radio, tutti mi hanno detto che c'è una bella trasmissione, però la ricezione è una grande cagata, appena c'è Claudio che accende mi scompare, mi attrae tutto, devo attenuare tutto, perché sennò non riesco a sentirlo, va in saturazione subito, c'è un grande difetto, però di modulazione, detto da voi, io non mi sono mai ascoltato, è una bella modulazione. Mentre l'altro, l'Inter, che è quello che piace a me, il Musico 497, che è uno spettacolo, come ricezione di tutto il mondo, lì ci ho abbinato l'M600 base di microfono, ecco, eccetera eccetera, e poi ci ho messo il suo microfono, l'MC33B, però non mi piace, perché poi c'è anche un altro Intec in base, il B310 3104F, non riesce discretamente, però relativamente di coso, di ricezione non è niente. Hai strappato? Ho fatto tutto il passaggio strappando, buonasera. Ciao. Ciao, ciao, non so chi c'è, sono appena entrato. Ciao, qui a Roberto, è la mia che sta da passare con lo stesso pure entrare. Sì, Robby, hai strappato adesso, all'inizio andava benissimo e poi ha cominciato a strappare tutto. No, no, stai andando in negativo. Tutto incomprensibile. Ciao. Ciao a te. No, non è solo batteria, Robby, c'hai proprio picchi negativi evidentissimi. Sta peggiorando. Passi da 9.40 da muto a 9.30 tutto. Robby, se ti può consolare, la radio è incomprensibile, non si capisce cosa stai dicendo. Forse l'ha fermato un po', anche lui ha detto che l'ha fermato un po'. Riprendo la ghiaccioline. Adesso che siete sovrausati, sono urlati, chi è l'altro? dai, io sono 3131 qua, 59 per Daniela, dai, app. Ciao, Rogerie. E metti. Sto facendo male, chi è? Sto uscendo. Chi sta a scarica queste robe? Sto uscendo bene, a certi che relativi come mai. Eppure qua sono andato a posto, sta facendo adesso un masso. Sto facendo male, robe. Aspetta, adesso ora succede a poco. Male. Se stancato, dato un po' tempo, aspetta un po', se sto facendo bene. Non si capisce niente di quello che stai dicendo. Robe, sta un po' come sta andando adesso. Adesso bene. Ma è qualcosa di raro, di alta qualità. Cioè, capito, chiaro, di radio sono sul basso. E adesso di radio basso? Dove ha cominciato a tranchiare? Sembra che la batteria è partita, ancora per macchia. Ma quello ce l'ho fatto io, Robby. Non ho capito lui. Quello ce l'ho fatto io. Quello che mi hai dato tu di che cosa? Ma qua c'è la stessa le base. C'è una d'epoca. Però... No, ma sta facendo male, Robby, non si capisce niente. Vabbè, dai, passa l'altro, probabilmente ora la batteria o qualcosa, dai, bisogna fare delle prove con calma, dai, come adesso? C'è tutto un non si capisce niente. Guarda adesso, l'ultimo tentativo. Adesso sì, esci bene. Uno, due, tre, provare adesso, va bene. Quando gridi fa la scorreggia. Adesso va bene? Adesso va bene. Ma è bassa o posso sollevare? Però quando metti il tono della voce gracchia. Vabbè, forse è troppo alto il Mickey Game, dai, bisogna pulire con lo spray il coso del Mickey Game dell'apparato. Guarda un po' adesso. Adesso va bene. Vabbè, passo all'altra, dai, questa mi sta rompendo le scatole. Avanti, tiro muscolo, se senti qua la vostra amica la modulata, cap. Sì, ho lasciato un po' di bianco per fare prove a Roberto perché era una cosa un po'. Attrappato troppo, no, ma incomprensibile da parte mia, quindi ho preferito lasciare un po' di bianco e vabbè, fare le prove con voi. E tu dove sei, Luca? A domo, pacca mamma. Cappa, vabbè. Già, adesso vediamo forse anche domani. Non posso rischiare, dai, non posso rischiare, ma ciappani, andate lì, questo qui in giro, vai a fatti lì. E questo è un senso? Vabbè, sì, questo va bene. C'è un mio vicino invece che fa, vabbè, lui abita a Frissi Malgrazella, no? Tu sai benissimo dove abito io, quindi fa la Malgrazella, viene qua ogni santo giorno, però anche quello, mi ha detto guarda che se ti trovano puoi passare dei guai, poi vabbè, ognuno fa quello che le pare piace. Oh signori, dai, interrompo un attimino, io vado a mangiare, dai, vi lascio, poi dopo se c'è qualcuno rientro, se no salutatevi tutti quanti. Ciao, correti da parte mia. Ehi, arrivo io, dai, ciao, vabbè, ciao, buona carica, buon tutto. Se coincide ci si riascolta più tardi. Vai Luca. Sì, ciao Robè, buona carica, dai, alla prossima, ciao. C'è anche Gianni. Gianni ci attende con il Remi, lascia il Remi e Gianni ti va a arrivare. Tanto non le puoi toccare adesso, quindi occhio. Tutti i virus, e poi sudi e muori. È un casino. Vabbè, comunque, novità, ma io sinceramente non le sto ascoltando queste cose sui telegiornali e quant'altro, perché tanto stanno dicendo sempre le solite cose, ma in sostanza ci sono stati dei miglioramenti o meno? Ma l'ultimo decesso, quello di Ossi. Sì, quello l'ho sentito anch'io, quindi la cosa non è che stia migliorando. Ma a proposito, Luca, si mette in giro voce che Pipistrello se n'è andato così? Chi? Michele, Pipistrello. Si conferma, è morto, sì. Ma è una cosa di altro genere comunque, dai. Allora, io non l'ho più visto in giro, ma più di 2 anni, forse di più. E lo chiedeva la moglie, è a casa, sta bene, a casa sta bene. Vabbè, l'ho sentito tramite sempre Facebook, però già una fonte attendibile che conosciamo entrambi. Vabbè. Ma se si è ammalato, non so. Non lo so di cosa è morto. Sicuramente qualcosa aveva. E non mi di niente Murendi. Come di niente. Vabbè, ci prendiamo la vita per com'è lui, tanto non si può fare niente. Ti ammazzi, sempre così. Quando è arrivata la nostra, ce la dobbiamo andare. Senza stare lì a dimenarci. Guarda, sono d'accordissimo con te. Intanto, prima o poi tocca a tutti. Tutto qua lasci, quello che è tutto qua lasci. Sì, io ci lascio poco, mi dispiace per i miei piccoli che non ho potuto fare di più, però qualche che ho io è per loro, quindi. Vendi, cavolo, voi siete lasciati tutti come te, Gianni si vende abbastanza, sta lavorando e sta mandando avanti la famiglia. Sì, come tutti d'altronde. Vabbè, Gianni è rientrato, sì. Sì, hanno chiamato al telefono, là. Non so, purtroppo uno si fa dei conti che magari sono andato al tempo. Cercare di stare video, poi quando riesce a fare qualche cosa per aprirlo e vabbè, preghiamoci la salute, va, e cerchiamo di andare avanti, poi è così. E tu puoi capire la musica che non vede, se deve questo coronavirus la passata, se deve anche da un qualche momento, ma preghiamo che oh già, sinceramente non mi meraviglia perché tempo 2-3 mesi fa circa è successo, uno dietro l'altro, due persone di quell'età lì stesso se ne sono andati diversamente, collasso e ciccia, giovanissimi anche loro. Addirittura uno giocava anche a pallone, quindi ti puoi immaginare se era in buona forma. Non lo so, c'è qualcosa nell'aria, è inutile stare lì ammalati, tanto la prima cosa che collassa sono i polmoni, quindi se ti adiri, se ti alzi, se ti fai, cerca di stare tranquillo e sereno, se si riesce. Monti, io penso solo che ci sia una persona più fortuna, c'è quello che non puoi metterlo nel problema. È una persona più fortuna, se è fortunato continua ad andare a fare, se non è fortunato è chi dà la ragione. E quando è venuto successo a me, i civili, questo e quell'altro, perché io mi sono sempre salvato. C'è gente che fa una cazzata, fate la festa, e se non fa calzare scala, sì, anche io la penso quasi così, dai, quasi allo stesso modo, non proprio però, insomma, perché c'è anche quello giovane che va a cercarsela, quindi uno si fa la vita normale, tranquilla, serena, se deve succedere succede, però effettivamente anche io ultimamente, ti parlo di 4-5 mesi fa, non so se hai saputo, sono caduto dal ponte, sono all'altezza di forse un metro e mezzo circa, dai, 1,60 non di più, però sono caduto di fianco, mi sono inclinato un po' di corpo e soprattutto ho svolto leggermente la testa, ma leggermente, in caso ha voluto che lo svolta leggermente, se la sbattevo come doveva essere, a quest'ora non avrei potuto raccontare, quindi voglio dire, anche quella era una sorta di fortuna. No, non l'hanno saputo nulla, non mi piace, ma non l'hanno saputo nulla, anche perché le cose non sono rimane a nulla, devi stare alle cose e fare, non fare altro. E so qualche cosa io, da un incidente che ho avuto, ho avuto lo sperma e tre cose per tranquillare, e a me non ha fatto il tranquillo, ogni volta che stanno giù, per il tranquillo che vanno a dolori, che non sono tutto male. Allora, non siamo amici. Dove c'è l'ombretto meccanico, guarda quell'altro l'anno per lui l'ho preso. Già lo so, anche io, ti ripeto, l'ho avuto 3-4 mesi fa, dopo una settimana, anzi bugia mia, dopo 10 giorni sono andato nuovamente a lavorare, giusto per farti capire come sono fatto io. Ho cercato di nascondere un pochino le cose, però poi alla fine il dolore era insopportabile, quindi non potevo neanche tossire, però ho fatto passare praticamente l'incidente a una malattia, quindi ho fatto finta che mi ha preso l'influenza e l'ho tirata avanti per una settimana, contando sabato e domenica, ho fatto mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, più tutta la settimana, più tutta sabato e domenica, quindi sono 7 e 5, 12, dai, così. Registrato. No, problemi di assicurazione no, era assunto per... ti ricordi Luca quando stavo lavorando alle case Marroni? Dopo di quello siamo andati all'Alghero a lavorare ed è lì è successo. Quindi assicurato era assicurato, però era a tempo determinato, quindi non sapevo quanto poteva durare la cosa. Ho detto vabbè, sembra che ho fatto apposta, neanche entrato in questa impresa già subito mettendomi infortuni, malattie, balevare, sai, io la penso sempre un po' all'antica per quanto riguarda il lavoro, però ho fatto male, sì, Gianni, lo so, ho fatto male. Che è? Stava chiamando avanti. Aspetta Gianni, forse non mi hai sentito, avevo lanciato a Giulio, però avete parlato in due, Giulio, avanti. Ok già, ok sì, no io ho detto, appena che ho chiamato, cioè che ti ho salutato, subito poi ha sbattuto la chiamata per scendere da per cui devo scendere, non ho fatto il tempo a quasi nemmeno a salutarmi. Ciao ti, scusatemi dai, ciao Gianni, alla prossima, domani, se prendi pure ti, dai. Ci mancherebbe Giulio, sempre ben accetto il saluto, per carità, altrimenti è giusto che stai andando, ti rilancio a Gianni e a Luca, c'era anche l'offerta, così faccio girare e te lasciamo andare. Vai Gianni, ciao Giulio. ciao. Ciao, ciao, siamo Marco Tucci, grazie, buona serata e buona caccia per la parte. Avanti, grazie, aspetta, avanti. Ciao Giulio, dai, buona cena a voi tutti, alle prossime. Ciao Luca, lo sapevo che c'era anche tu. Ciao Roberto, se ci sei anche tu, ciao. Chiudo, dai, chiudo, chiudo, mi hanno chiamato per la seconda volta, ciao. Ciao Giulio, ciao. Vabbè, dai, bisogna sorvolare. No, vabbè, già non fa male stare in casa, dai. Purtroppo non si può, cosa devi fare? Oggi mi sono passato la giornata montando, piazzando, aggiustando e che ballacchi. Va bene. Lo so Gianni, io ho sbagliato perché non volevo incasinare un pochino l'azienda, perché ancora una leccata non frutta per quanto riguardava l'inizio di quel cantiere, capito? Quindi stavamo iniziando e lì ho detto vabbè, cerchiamo di non creare casini, e invece poi il casino è rimasto a me perché ho fatto fine dopo un mese e poi rimanendo, non dico a casa perché avevo degli agganci, per carità, ho fatto fine due e iniziando l'altro, grazie a Dio, ho sempre delle buone amicizie su questo campo qua, però c'era da, adesso non mi volevo pagare le, come si dice, le, fine rapporto lavoro, devo immaginare com'era questo. Va bene, dai. Io rimango in quell'X perché tanto succederà che sentirete un po' di bagnare, non so, dai, vediamo, se non vi dà fastidio continuo, riprendi già. Senti, non so bene, ma se ci vuole anche io stavo facendo, ma mi si è considerata che invece non se ne mette per noi, ma tre volte è meglio affidarsi alla legge, ma perché tu avresti preso il 100% e non mi fa fare la legge. Stavo lavorando in un ponte fatto con dei cavalletti alti, circa 1,60, te ripeto, è la tavola, una tavola, mezza tavola in legno, l'altra invece era in ferro, le classiche lamiere che si mettono del punteggio, no? Ho appoggiato un po' di forati nella tavola in legno, come ho toccato la punta del piede, quella tavola sembrava, guarda, come che non ci fosse, marcia, proprio e ho lavorato la mattina addirittura, la sera mi è successo, prima dopo mangiato, subito dopo mangiato ho fatto questo patatrac, e vabbè, adesso sentirete del rumore, non so se vi dà fastidio, se non vi dà fastidio continuo. È meno male che si grosso, c'è iniziato l'anno, si era bloccato, sì. Ma lo sai cosa mi hanno detto? Vabbè, io così ti dico perché me l'hanno detto, per dire, ho preso 50 kg o 100 kg, cioè sempre il doppio del tuo peso in base all'altezza che sei caduto, quindi io ne peso quasi 100, era come quasi, e sono caduti quasi 200 kg a terra, capito? Ha preso molto. E allora sei caduto tutti? Nel ponte, a Valghera, in un ponte che avevo fatto per lavorare, per fare un tramento. Ma sei malattia adesso? No, questo è successo 4 mesi fa. Io adesso sono fermo per altre vie, diciamo, per il corona, sono stavo lavorando lì alla veloce. Ti meglio. Meglio che vi hanno bloccato, dai, alla fine questa, cioè, non va bene. Dai, poi già, tanto sicuramente sarà anche pagato, non è che non ti lascia stare in alto. Guarda, non lo so, al momento non si sa niente ancora, credo che ci sia l'integrazione, non so se l'hanno messa in opera ancora, se è in corso. Ma noi ce l'ho provato perché c'era il decreto, dobbiamo fare ancora per il braccio dove ne hai detto tu, praticamente lì vicino al bar, poi più avanti del, diciamo, alla Fossa del Rivello e poi all'incrocio di Assolati. Dovete scavare, ho capito. Vabbè. Io sono uscitato da stamattina dalle 4:30. Stasera mi sono riposato, di solito il pomeriggio mi riposo. Sicuramente stavolta dormo bene, speriamo, va? Ma io mi sono svegliato presto, ho preso, però direi che di girare il letto per fare così. Alla fine sono fatto, mi sono messo a lavorare un po' in campagna, a tagliare un po' di legna, a fare. Devo passare un po' di tempo perché sono in piccio. io dopo mangiato per poter andare a riposare, invece mi sono guardato tre film di seguito di azione e adesso mi sono seduto a chiacchierare con voi. Non vi accarrate. Sì, scusa, stavo per prendere il telefono, pensavo stava vibrando. Vabbè, là. Rimaniamocene a casa. Poi speriamo che le cose cambiano. Sì, sì, vabbè, io sono ancora già da un po'. Ho fatto una bella spesa, proprio per non fare di uscire come certi imbecilli fanno, perché da me sono imbecilli. Prima la gente che entra senza guanti e senza mascherina, perché forse ancora non ho preso la cosa molto seriamente. Secondo, quando va a comprarsi un pacco di carta igienica, oppure un dentifricio, oppure mezzo chilo di pane, o tre panini e quant'altro. Io purtroppo volevo cercare il pane, non l'ho comprato tantissimo, ne ho comprato un bel po', però me l'ho messo in freezer, piano piano, quando ne ho voglia lo mangio. Del resto cerco di non uscire il più possibile. Vabbè, io parlo di me personalmente perché ho degli sbagli magari in campagna. Quando a casa ognuno cerca le sue comodità, le sue cose da fare, però è anche sbagliato uscire spesso e volentieri per fare due cose di spesa che ne potremmo fare anche a meno. Vabbè, è una loro scelta e insomma ci prendiamo un po' tutti, ecco. No, hanno messo un numero che ti può interessare, hanno messo un numero del nostro verdura che porta la verdura a casa, io oggi me l'ho fatta portare a casa, non sono uscito, me l'hanno portata fino a casa con la mascherina, con i guanti, tutto quanto, mi hanno consegnato la roba, quello invece alimentare non rispondo, c'è cura, c'è ci sono altri negozi che sono associati, cosa, non risponde nessuno. Occupato non rispondo, però non sono riuscito a farlo, tanto è vero che ho dovuto chiedere a altra gente di farmi la spesa, perché non sono riuscito dalle 8 di mattina a contattarmi sulla Sì, lo so, per quanto riguarda la frutta e verdura, sì, anche mia cugina fanno la consegna a domicilio. Non è che non ti rispondono, Gianni, io credo che sono intasati, perché mia sorella l'ha fatta anche l'Eurospin e diciamo che al 99,9% gli hanno portato la cosa giusta, tranne che una stupidaggine, ma uno si deve anche accontentare. Voglio dire, giustamente non credo che possano riuscire a accontentare tutti, perché lì gli ho dato la lista ed gli avevo portato l'indomani, invece gli hanno portata il giorno stesso, forse perché sono alleggeriti, non so, però dovresti insistere già. Allora, sono in casa, il telefono non è libero, io ho provato nel telefono e la libera non rispondeva. Poi mi telefonavo ed ero occupato, mi telefonavo ancora, la libera non rispondeva, e cosa vuol dire? Sei libero, devo non rispondere, devo esserci una persona che prende le cose. Io non è che non faccio quelle, non lo faccio per cose per tutto, io non mi posso muovere, non posso andare a farmi la spesa. Se non me la fa qualcuno rimango senza mangiare. Ascolta, intanto dovrei avere il tuo numero io. Mia moglie mi sta facendo, se vuoi ti mando un po' di numeri dei negozi e per il giro, così almeno magari provi per altre vie. Sì, puoi anche avere ragione già, però metti il caso che c'è talmente l'afflusso di gente che chiama, magari dice no, non rispondo adesso, prepara questo, e poi automaticamente cosa succede? Si avvicina a te, tu smetti di chiamare un altro, magari rispondono agli altri, come succede molte volte anche nelle pizzerie, quelle che sono da sport, devi sempre cercare di tentare. Io ho cominciato dalla prima, io ho guardato l'ora, dalle 9 alle 3, ho cominciato dalle 9 di mattina, ed era sempre occupato il telefono, ho sentito, diceva che era disponibile o che era spento. Poi ho provato alle 9:30, era libero e non rispondevano. Poi ho provato tutt'altro, sì, allora sono stato tutta la mattina perdendo tempo, chiamando a questo ufficio, perché non è tutto spesso, non è indifferente da fare, non era un peccato. Era un bel po' di roba, perché scusa, quella che ho scelto era carissima, perché ho preso due lacune e punti, posso dire, un po' di pomodori, e così invece di 30 passa lì, cosa che quando vado a Moscardino su al monte con 30 euro deve essere così. Beh, non so, c'era qualche uno che voleva entrare. Ciao Tino, ciao Gianni, ciao Tino, sono stato con Linti. Ti volevo dire una cosa, Gianni. Tu e appena l'abbiamo fatta, non hai Isa la piazzetta. Non ci bisogna più chiamare, se avete internet, ti mandano i Linti, tu ti prendi e ci esce tutta la lista, la roba che c'ha, no? Se tu clicchi, ti fai l'ordine di avere il computer. Ti arriva l'ok, poi ti arriva, allora l'ho ricevuto, che piano orario, ce la puoi consegnare a casa oppure andare a tirarla. Io invece se la volevo, posso la consegnare a casa, mi dovevo aspettare una settimana, facciamo un po' per consegnare. Invece sono del giorno, no, l'orario dalle 16 alle 6, poi lui è secondo chi mi è arrivato, alle 9:30, alle 9:30 ce l'ho dato, non mi sono fatto quanto, non ho fatto la fine di niente, ne avete già. No, non mi piace, sono entrato su internet, c'è dei prodotti che vogliono loro, quelli che voi non ci sono, cioè ti mettono solo i prodotti più cari e quelli che vogliono loro, io certe cose non mi interessano e quelli che voglio io non c'erano i prodotti, perché ci sono dei prodotti prestati, invece a me mi piace fare l'elenco io della roba, no, che ti mettano la roba loro, l'elenco lo voglio fare io della roba che mi serve, non è che prendi i biglietti e se ne occupare. No, già, aspetta, qua ti correggo, perché mia sorella quando ha fatto la lista gli ha dato il nome e la quantità di quello che voleva e gli hanno dato quello che voleva lì. Sì, ma qui sta parlando di Nonna Isa ti mette il prodotto completo, cioè ti mette alcuni prodotti per dire a me cosa mi ha più fila dell'ufficio se non prendo roba da mangiare, ti mette i prodotti che vogliono loro, no? Quelli che loro ritengono siano più essenziali. Ma ci sono prodotti che per dire a me mi servono le navette e non ci sono, mi serve il pane e non c'è. Cioè cosa la faccio a fare la sera? A metà la faccio, ma io devo fare l'elenco io e mandare quello che voglio io. Scusa già, comunque noi abbiamo scelto quello che volevamo noi, ti dice tutta la stampa, tutta la stampa ti dice, capito? E poi dice, c'è, la roba di marca, come tu sai, tu sei un elemento, roba di marca è roba che sotto marca, diciamo, capito? Ok, detto questo io sono il corpo e sto facendo un lavoretto, scusate, introduzione, Cristino, ciao. Marino, Marino. Ciao biondo, ciao. Questo ecco che c'hai, cosa c'hai? È troppo ripetitivo, quando parli trova in un secondo momento e molte volte se non stai attento al discorso faccio fatica a capirti, Mario. Ho passato, ciao Luca, ciao. Oh, Marino. Marino. Sì, Luca. Come mi ascolti da casa della mamma, bene? Benissimo, è forte, ottima modulazione. Dai, sono qua sulla 131, svincolando per Prasarieta, dai, scarico merci, Andiamo, Luca, ciao. Ciao, Maricatta. Dai, Tino e Gianni, se ci senti io dopo, se ci senti è bene, se no andiamo a mangiare. Vado a mangiarmi qualcosina, dai, roba leggera per stanotte. No, fa mangiare, non è tra frutta che va bene, solo dopo diventi rotondo, Davvero, è tutto quadrato diventa. Ma io ho deciso, una volta non sto più mangiando, quindi ho perlomeno qualche cosina, ma niente di che. Ma io la verità, vabbè, mangio un pezzettino di pollo, l'ho fatto da verde, e qualche frutta, e basta, no, e mangio la pasta, no. Gianni, quello è fine settimana, è bello. Sempre per il bando dei ragazzi, mi dà! Questo mi piace! Ma veramente l'ultima volta sono andato da Fabio, un amico, ma c'è di via, da Fabiolini, e mi sono innamorato di queste bistecche, che ne ha fatto una, un più di 200 grammi ha pesato. E se la mangi? E secondo te? Non ce la butto la buccia, Ma ora io mi saluto là, che non si sta portando la mia qua, ne devo un paio di Due cose, qui ci si coincide, aspettate, ciao. Vabbè Gianni.